cittadini del blog del Pilastro meritano innanzitutto di essere ringraziati. È un progetto che il Comune di Bologna aveva iniziato durante appunto le attività connesse al progetto Pilastro 2016, quindi il progetto di valorizzazione del Pilastro connesso alla celebrazione del suo 50esimo, che è caduto appunto nel 2016. Uno dei progetti di valorizzazione era appunto anche quello di coinvolgere un gruppo di cittadini che avessero voglia di poter di raccontare i luoghi in cui vivono, i luoghi che amano, e poi questo progetto è andato avanti oltre le aspettative, perché poi si è sviluppata una grande passione e i cittadini che fanno parte del blog del Pilastro sono diventati veri e propri giornalisti, appunto erano stati formati da Lucia, che ringrazio, poi sono costituiti in un gruppo stabile e quindi ogni giorno raccontano l'anima del Pilastro, lo dico anche nella prefazione, ci riescono bene perché conoscono bene il territorio, lo amano tanto e hanno quell'occhio attento ma obiettivo per raccontare appunto quello che succede al Pilastro, e raccontano tutto a 360 gradi, le cose belle, le eccellenze che sono tante, le contraddizioni, i problemi, le difficoltà, le speranze, e quindi è un libro che fa conoscere davvero il Pilastro. Invito anche a visitare anche il blog, perché questo luogo ha bisogno di essere conosciuto, ha bisogno di essere raccontato. Purtroppo si va sempre sui giornali quando succede un episodio di cronaca, qualche episodio di cronaca che appunto può accadere tranquillamente anche in altre parti della città, ma il Pilastro si porta dietro uno stigma, un pregiudizio verso cui stiamo lottando, verso cui i cittadini stanno lottando, perché tutte le volte quando succede qualcosa, ecco il Pilastro, ecco il Bronx, ecco il posto più brutto di Bologna. No, non è così. Il Pilastro è un luogo dove ci sono tante eccellenze, ci sono tanti servizi di qualità, ci sono tanti cittadini che sono per bene, che amano il loro territorio e lavorano appunto insieme alle istituzioni per promuoverlo e per valorizzarlo. Una delle caratteristiche fondamentali che il Pilastro ha sempre avuto è proprio quella, fin da quando è stato fondato, nato da, secondo me, delle scelte abbastanza scriteriate dal punto di vista progettuale, perché è stato messo ai margini della città, dove non c'erano neanche dei servizi, ma ci sono state delle battaglie civili per avere i servizi, e poi le istituzioni negli anni hanno capito l'errore e hanno sempre investito per dotare il Pilastro di servizi e di tutto quello che meritavano, e negli anni si sono sviluppati dei rapporti importanti di collaborazione tra i cittadini e le istituzioni, e questo, la storia del blog è una di queste storie, è uno di questi esempi, e quindi credo che sia davvero un libro da leggere con grande trasporto, perché se lo si legge si capiscono tante cose del Pilastro e si impara ad amarlo, si impara ad apprezzarlo, con tutte le sue contraddizioni, con tutti i suoi problemi, però con anche tutte le sue eccellenze, le sue potenzialità, che anzi vi chiediamo sempre di più di aiutarci a far conoscere al resto della città, perché il Pilastro, se lo conosci, se ci vai e se utilizzi i suoi servizi, se partecipi a qualche iniziativa culturale che viene organizzata, se conosci la sua gente, te ne innamori. Perché davvero il Pilastro c'è da innamorarsene. Queste persone, appunto, del blog, questi amici, ci fanno innamorare del Pilastro attraverso il loro racconto, attraverso la loro grande passione. Quindi credo che sia un patrimonio, oltre che un esempio di passione civile vera, è anche un patrimonio prezioso che va sempre, tutelato, promosso e valorizzato sempre di più.